Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un saluto a Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. E allora Gianluca, oggi tocchiamo un tema che riguarda la famiglia, no? Perché voi avete visto che la crisi economica e anche altre condizioni spaccano un po' la coppia. Parliamo di questo oggi. Sì Francesco, abbiamo voluto così procedere con un'indagine che per ora abbiamo svolto nella provincia di Venezia, ma abbiamo potuto insomma vedere che è un trend purtroppo, lo diciamo subito, consolidato sia in Veneto che in Italia, ed è quello relativo un po' ai divorzi, quindi alla coppia che scoppia, come si suol dire. Dobbiamo dire che negli ultimi anni il numero di persone divorziate è aumentato esponenzialmente, e ciò significa insomma che c'è qualche problema che riguarda la coppia. Nel particolare noi abbiamo analizzato i dati degli ultimi 10 anni, quindi abbiamo voluto vedere cosa è successo dal 2006 al 2016, mm-hmm. E in questo caso sia nel comune di Venezia che nelle prime 10 città della provincia, anche se ripeto comunque è un trend che vale purtroppo per tutte le città e per tutte le province. E abbiamo potuto constatare che dal 2006 al 2016 c'è stato addirittura un aumento di oltre il 40% del numero di divorzi. Questo è il comune di Venezia, e sono passati da 5.913 a 8.344, quindi in pratica abbiamo circa 2.400 divorziati in più rispetto al 2006. Ecco, c'è da dire una cosa Francesco, noi stiamo parlando di un trend di 10 anni, quindi non un trend che va indietro di 40-50 anni, e quindi vuol dire che in questi 10 anni comunque è successo sicuramente qualcosa, e anche perché abbiamo potuto vedere che anche nei primi 10 comuni, quindi nelle province dove di solito magari i matrimoni molte volte hanno più forza, più resistenza, abbiamo visto che invece anche tutte le principali città della nostra provincia negli ultimi 10 anni hanno proprio registrato un boom enorme di divorzi. Ecco, conta che nel comune di Venezia siamo arrivati da una media di un divorziato ogni 45 abitanti a una media di un divorziato ogni 32 abitanti. Ora la domanda che ci poniamo è ovviamente cosa sta succedendo. Non ci si può appoggiare solo a ciò che è accaduto nel 2015, quindi con l'approvazione della legge sul divorzio breve, perché effettivamente sì, guardando i dati, l'aumento dei divorzi dal 2015 al 2016 è del 6,6%, non differente rispetto agli anni precedenti, non molto differente, è un leggero aumento ma non molto differente. E quindi la domanda è: cosa è successo in questi 10 anni? Diciamo che da quello che abbiamo potuto vedere come Adico, grazie allo sportello che abbiamo aperto proprio sui divorzi brevi, sulle separazioni brevi, proprio per venire incontro alla gente purtroppo in questa fase difficile, insomma per renderla meno difficile, e abbiamo analizzato un po' anche le motivazioni che hanno portato poi alla separazione della coppia. E diciamo in primis noi mettiamo la crisi economica, perché la crisi economica aumenta la conflittualità, sicuramente aumenta la conflittualità familiare. Certo, problemi di sopravvivenza tra il nucleo familiare portano poi a una scissione, no? Sì, perché Francesco, ma proprio anche le tensioni legate per esempio alla perdita del lavoro, a una bolletta che non si riesce ad affrontare, e al fatto di non riuscire proprio a tirare avanti in due, magari anche con dei figli, c'è poco da fare, può aumentare la conflittualità, anche se di contro magari certe famiglie in queste fasi difficili preferiscono invece addirittura resistere e stare assieme con un cumulo magari di due redditi. Però diciamo che quando c'è conflittualità in casa, e la crisi economica l'accentua notevolmente, è più facile che la coppia rischi di scoppiare. Certo. E purtroppo però aggiungiamo un'altra cosa che può essere una lettura un po' particolare, però noi l'abbiamo notata almeno in un caso ogni 10 di quelli che ha affrontato il nostro sportello, ed è legato un po' anche alle conoscenze che si fanno sia nel mondo del lavoro ma sia soprattutto nei social. E purtroppo sembra una curiosità, ma invece purtroppo può essere una cosa, una lettura vera. I social hanno portato anche alcune coppie a separarsi, perché una delle due persone della coppia ha conosciuto qualcun altro, appunto, tramite questi nuovi metodi, queste nuove tecnologie. Quindi internet che diventa un motivo per conoscere nuove persone. Sì, sono casi magari più rari rispetto soprattutto al fatto delle coppie che a un certo punto si rendono conto di essere incompatibili e ci chiediamo come mai non se ne fossero rese conto prima, ma questo fa parte della vita. E quindi è una parte residuale, diciamo, quella dei social, però è presente anche questa problematica. E quindi, insomma, monitoreremo ancora la situazione e lanciamo ovviamente un appello a chi ci governa: servono politiche forti per la famiglia. Sono pienamente d'accordo, dovrebbe esserci un'attenzione maggiore proprio verso le famiglie. Grazie quindi a questa interessante visione da parte dell'Adico. Ricordo il sito www.associazionedifesaconsumatori.it e ti ringrazio, ci risentiamo tra qualche giorno, caro Gianluca. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.